Italia in controluce. Buon pomeriggio, sono le 13.34 minuti e 14 secondi. Vi parla Daniele Biacchesi su Radio 24, Italia in controluce, che osserva con nuovi occhi la cronaca italiana, un format radiofonico nuovo, un po' scritto, un po' parlato, ma girato come fosse un vero reportage televisivo. La radio a colori che ogni tanto torna in bianco e nero. E torna in bianco e nero con una storia del passato e del presente, quella di un imprenditore veneto che viene dalla gavetta, che molti anni fa aveva sofferto la fame, e poi quei ricordi di povertà gli sono improvvisamente ritornati alla mente quando in età adulta è diventato un uomo ricco, un imprenditore di successo. Questa è la storia di Gianni Tonin, una mosca bianca in un paese che normale spesso non è. Il racconto di Cristina Carpinelli. Lui, quello che avendo sofferto la fame, io avendo visto quanto aveva sofferto, lui non si è innamorato, diciamo, delle cose materiali, è quello che ha sempre avuto, l'ha dato, l'ha sempre condiviso con gli altri, i problemi, i dolori. Io l'ho visto soffrire molto, anche perché è partito da zero, ho visto le difficoltà che incontrava mio padre nell'inserimento nel mondo lavorativo, quando partiva, non so, di notte con il camioncino a vendere delle scarpiere. Arrivava a casa 30 anni fa e faceva i conticini, diceva: guarda, abbiamo guadagnato 50.000 lire questa settimana. Cioè, vedevo le difficoltà, insomma, di mio padre. Gianni Tonin, il padre di Simonetta che avete appena sentito, è un imprenditore di San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova. Produce mobili. È nato povero, ha combattuto per affermarsi, ha tirato su bene 4 figli, ha tirato su bene un'azienda che ha 102 dipendenti, tra loro italiani, turchi, romeni, brasiliani. Il capomastro è il primo romeno che Tonin ha aiutato, poi ne ha aiutati molti altri, così ci racconta Simonetta, sua figlia. E ovviamente non ha fatto soltanto questo sui rom, è intervenuto anche in famiglie italiane, all'interno dell'azienda, chi non arriva al fine mese con stipendio, eccetera. Io l'ho sempre comunque stimato e sempre molto molto affiancato nelle sue scelte. Oggi Gianni Tonin realizza mobili di pregio, famosi, che finiscono nei set cinematografici e nelle case della gente che conta. La gente che conta spesso ha case impeccabili e porte sprangate. Paura che qualcuno entri a rubare, dicono. Invece Gianni Tonin la porta di casa l'ha aperta. Così da 10 anni ospita 4 famiglie di rom all'esterno del suo capannone. Per loro ha comprato le roulotte e ha dato loro la residenza, così i bambini possono andare a scuola. Sono famiglie originarie della Romania, ma hanno in comune con Tony, come lo chiamano, una cosa: sanno cosa significhi essere poveri. Tonin non ha scordato di quando coi suoi viveva in una baracca abusiva, rubava le uova dalle galline per mangiare. Adesso mi stanno quelli che, una famiglia che non ha la residenza, che ha 2 bambini e me li vogliono mandare via, insomma. Ma perché? Si sono incazzati neri, il sindaco, i vigili. Non ha la residenza, sono qua da 20 anni e ultimamente si era peggiorato, e anche 4-5 anni fa ha incominciato: no a San Giorgio, no a Villa del Conte, no, e tutti li mandano via. Ho detto: mettetevi dentro qua, che almeno, anche perché dovevo andare a scuola, ho detto: se facciamo residenza li mandiamo anche a scuola. Se vanno a scuola poi non avremo più persone ignoranti senza lavoro, no, se vanno a scuola non avremo più zingari, secondo me. Ma i giovani, io ne parlo sempre quando vado in Romania, parlo con dei preti responsabili della carità di Assi in Romania, e un prete greco-cattolico, facciamo discussioni fra il capitalismo e il comunismo, e gli dico che il capitalismo è uguale al comunismo, è il rovescio della medaglia. Perciò il capitalismo si innamora dei soldi, si dimentica l'uomo. Mancano gli oratori di Don Bosco, il capitalismo li porta via, fa discoteche. E fatica a recuperare i giovani con le discoteche e con il benessere, molta fatica. Il comune di San Giorgio, per voce del sindaco Renato Roberto Miatello, in quota Lega Nord PDL, pensa che Tonin dica balle, a cominciare dalla sua storia personale. Il signor Tonì sta raccontando delle balle, e lo garantisco io. Ma che cosa, cioè, ma anche secondo lei una famiglia che era, come diceva lui, no? Se vedevano che non aveva nulla da mangiare, non gli davano qualcosa, un litro di latte o qualcosa, c'era solo quello nei nostri campi. Ma perché ce l'hanno tanto con Tonin? Perché lui ospita 4 famiglie rom e solo una è dichiarata in comune, ci dice il sindaco Miatello. La popolazione non è che veda di buon occhio questo signor Tonin nel senso dei zingari di per sé, capisce? Guardi, io parto da un altro presupposto e a me risulta che siano residenti a San Giorgio in Bosco in 4 persone. Loro possono restare qui, ci mancherebbe altro. Allora, lui ha detto che sono 4 famiglie, io ho fatto controllare questa mattina e risultano una famiglia composta da padre, madre e 2 bambini. Tutto quello che è in più per me non è regolare. Io sono per rispetto delle regole, perché io ho 59 anni e in vita mia non ho mai preso nemmeno una multa, perché sono ligio all'ordine e alla disciplina. In chiusura ci è venuto in mente di darvi una lettura come compito a casa: la parabola di Lazzaro e il ricco Epulone. Italia in controluce. Che fine ha fatto il termovalorizzatore di Napoli? Perché il progetto si è arenato? Veti politici, scontri tra burocrazie, oppure sotto c'è dell'altro? Paolo Picona. A Napoli il termovalorizzatore non sarà mai realizzato. Parola dell'assessore regionale all'ambiente Walter Ganapini, che pochi giorni fa, nel corso di un incontro sulla tracciabilità dei rifiuti, senza peli sulla lingua, ha praticamente affondato il progetto del nuovo impianto che sarebbe dovuto sorgere nel quartiere periferico di Ponticelli. E non si farà perché, secondo l'assessore, mancano le condizioni, ma anche perché è stata avviata la procedura di infrazione dell'Unione Europea sui fondi CIP 6 e, oltre a quello di Acerra, di termovalorizzatore ce ne sarà soltanto uno a Salerno, un terzo più piccolo di quello che prevedeva il sindaco Vincenzo De Luca, un impianto di ossicombustione senza fiamma o un gassificatore tra Giugliano e Villa Literno in provincia di Caserta. Ma ecco, in proposito, le parole di Ganapini. È una mia valutazione personale, naturalmente anche qui è la provincia di Napoli che deciderà, perché spetta alle province di fare il nuovo piano provinciale per la gestione ordinaria. Io metto in fila le cose. C'è un'area sulla quale la stessa magistratura ci dice: prima di tutto completate il depuratore, perché le acque che scendono da lì, da San Giovanni a Teduccio, vanno in porto all'Immacolatella su 2 buchi che sono sequestrati dalla magistratura, e quindi va completato prima di tutto il depuratore di Napoli Est. Numero 2, non è chiara ancora oggi, poi probabilmente Asia forse avrà dei dati che noi non abbiamo, non è chiaro il dimensionamento. Una cosa sola mi è molto chiara, ed è che siccome, come abbiamo sempre detto, da più di 20 giorni è accaduto che la Commissione Europea abbia messo in mora l'Italia per l'uso illegittimo degli incentivi CIP 6, che sono l'unica garanzia che potrebbe aiutare qualcuno a finanziare il progetto, e siccome di soldi pubblici per fare l'inceneritore non ce n'è neanche uno, non c'è un euro, mettendo insieme tutte queste cose, secondo me è molto complesso che si arrivi a realizzare l'opera. Non è invece affatto d'accordo Daniele Fortini, amministratore delegato di ASEA, l'azienda speciale napoletana per la raccolta dei rifiuti, che 72 ore dopo ha replicato con una nota a muso duro all'assessore regionale all'ambiente, precisando che il progetto è voluto da una norma di legge nazionale che prevede il termovalorizzatore nell'area di Via De Roberto a Ponticelli, e che, seppur sia vero che al momento mancano finanche le risorse economiche per la raccolta differenziata, è altrettanto evidente che se la regione avesse garantito una mano si sarebbe potuto ampliare già di molto il porta a porta. Ciò nonostante, proprio perché, come tutti sanno, il termovalorizzatore è un impianto che si autofinanzia con l'energia prodotta, la SIA sta andando avanti e non corrisponde a realtà neppure il fatto che non esista un progetto. Al contrario, c'è un programma di massima, poiché a completare il disegno dovrà essere la ditta che si aggiudicherà l'appalto. Inoltre, le dimensioni e la quantità di rifiuti da bruciare sono già state determinate. Fin qui la nota della SIA, anche se un dato allo stato è comunque indiscutibile. Per ora sul tavolo c'è soltanto la polemica tra Regione ed Asia. Al contrario del progetto del termovalorizzatore partenopeo, non c'è ancora alcuna traccia. Alle 13.44 minuti e 12 secondi, Italia in controluce, seconda edizione. Su www.radio24.it trovate l'archivio delle puntate, le forme di comunicazione con noi, il gruppo di Facebook Radio 24 Italia in controluce, la mail controluce@radio24.it. Domani alle 6.30 per una nuova puntata.